canto bastardo della vecchia alla sfera. Che fai? Ok, è dedicata a te, uomo. Noi nomi non ne facciamo, tu ne hai fatti anche troppi. Ma tanto l'hanno già capito tutti di chi stiamo parlando. Ci vediamo presto. Mi ricordo quel giorno nel cortile degli sbirri. Io che mi asciugavo le lacrime, tu che ridi. Non gli han trovato un cazzo pensato. Invece tu bastardo ci avevi già infamato. Da quel giorno ti ho odiato di brutto. Sarò felice quando i tuoi chiuderanno per lutto. Dove cammini tu mi scanso e ci sputo. Sei un morto fottuto. Non è una minaccia ma solo una promessa. La prossima preghiera che dici di la più intensa. Non ci sono vie d'uscita e lo sai. Hai parlato troppo e ora sei nei guai. Da Barchetto alle Ferriere, le persone vere te la faranno vedere. Come entra nella gola tutta tutta. In silenzio ti ci lascio e faccio una bevuta. Con la tua bella faccia la fighetto alternativo. Hai tradito il tuo migliore amico al primo distintivo. Vieni in piazza, sì sì, vieni più vicino. È inutile che scappi, tanto ormai sei nel mirino. Con la tua bella faccia la fighetto alternativo. Hai tradito il tuo migliore amico al primo distintivo. Vieni in piazza, sì sì, vieni più vicino. È inutile che scappi, tanto ormai sei nel mirino. Occhi puntati come fare, d'ora sì che sono cazzi. Amare come Giuda, vendi i tuoi fratelli per 30 denari. Pari il culo ai tuoi pari infami e compari. Voglio vedervi tutti nella vasca degli squali. La gente come te lo sai non ha un futuro. Quando si mette contro Franky, Fabio e Terzo e Fanchigliulo. Sei amico degli sbirri e bene faccia contro il muro. E il tupo cos'è? Non eri un duro? Legato ad una vita che non ti apparteneva. Hai tradito la fiducia di chi in te ci credeva. Seduti attorno al tavolo per l'ultima cena. Più penso alla tua faccia più mi sale la carogna sulla schiena. Ora cammina a testa bassa per la strada. Lo devono sapere tutti che sei solo un figlio di puttana. Collaboratore, facciamo il punto della situazione. Moresti a bagni più di Poseidone. Con la tua bella faccia la fighetto alternativo. Hai tradito il tuo migliore amico al primo distintivo. Vieni in piazza, sì sì, vieni più vicino. È inutile che scappi, tanto ormai sei nel mirino. Con la tua bella faccia la fighetto alternativo. Hai tradito il tuo migliore amico al primo distintivo. Vieni in piazza, sì sì, vieni più vicino. È inutile che scappi, tanto ormai sei nel mirino. Con la tua bella faccia la fighetto alternativo. Hai tradito il tuo migliore amico al primo distintivo. Vieni in piazza, sì sì, vieni più vicino. È inutile che scappi, tanto ormai sei nel mirino. Con la tua bella faccia la fighetto alternativo. Hai tradito il tuo migliore amico al primo distintivo. Vieni in piazza, sì sì, vieni più vicino. È inutile che scappi, tanto ormai sei nel mirino. Troppi polli, troppi pappagalli. Sarebbe da sparargli e sarebbe da ammazzarli. Tu canta canarino, io come il cacciatore. Ti punto col mirino, mi rappetto e c'entro il cuore. Qui troppi polli, troppi pappagalli. Sarebbe da sparargli e sarebbe da ammazzarli. Tu canta canarino, io come il cacciatore. Ti punto col mirino, mi rappetto e c'entro il cuore. Infame.